giro giro tondo, casca in fondo, casca la terra. Aspettate un momento che hanno suonato, non ne dite più, non ne dite più. Ah, è quel ragazzo. Che diavolo sei? GFX 909. Oh, ma che meraviglia, sei tornato. Si ricorda di me? Oh, ma certo, ragazzo mio, io mi ricordo di tutti i bambini che ho avuto. E specialmente di te. E mi ricordo di te. E di te? E mi ricordo di te. E di te? E mi ricordo di te.